4 mattino. Buongiorno, sono un autotrasportatore di gas criogenici. Non ci siamo mai fermati, portiamo gas medicali e alimentari. E in azienda ci hanno dato in totale numero 2 mascherine usa e getta in 2 mesi. Grazie. Carissimo Simone, io penso che ella, come tutti, anche scienziati, virologi e tutti questi professoroni, avevano pensato che fosse una banale influenza e invece, quindi io la difendo, caro Simone. Io vorrei sottolineare aspetti, diciamo, di salute psicologica dei bambini, perché in alcune regioni non vanno a scuola dal 21 febbraio, non mettono il becco fuori di casa dall'8 di marzo, non so se sia il caso di tenere dei bambini ulteriormente isolati dal resto del contesto dei loro coetanei fino al prossimo 15 di settembre. Molti spunti. Non è il primo ascoltatore che ci segnala come in azienda gli siano state fornite poche mascherine. E però è vero che non se ne trovano. Oggi sui giornali ho trovato traccia da qualche parte, adesso vedo se riesco a recuperarvelo, però ve lo riassumo io, di un allarme arrivato addirittura dai dentisti. Cioè l'associazione dei dentisti dice: abbiamo, nella fase dell'emergenza, abbiamo donato le mascherine a chi in quel momento ne aveva più bisogno, gli ospedali eccetera eccetera, e adesso non le riusciamo a trovare nemmeno noi. Ora io qua voglio capire bene le regioni, lo Stato come si sta muovendo, perché se devo avere l'obbligo di mascherina fino alla scoperta del vaccino, che non ci sarà prima di un anno, e allora aiutatemi a capire come devo fare. L'ha detto Conte, ed è l'apertura di alcuni giornali oggi, mascherine fino al vaccino, titola per esempio il Corriere della Sera. Grazie per la difesa all'ascoltatrice, per chi si fosse messo in ascolto solo adesso, non mi ha chiamato ella per motivi, insomma, particolari, è che un'ascoltatrice ieri, insomma, criticandomi fortemente su Facebook, si è rivolta a me dicendo ella, e la cosa è curiosa, dicevo, insomma, è un modo, non so, adesso passerò a parlare di me stesso col plurale maiestatis, per modificare sempre di più e portare in alto il livello. La salute psicologica dei bambini, guardi, qua sfondo una porta aperta, questo è un elemento, un grandissimo elemento. Ieri, se ricordate, in rassegna stampa abbiamo letto un pezzo nel quale si raccontava da Avvenire, nel quale si raccontava proprio di una madre, ma altri casi ce ne saranno, anzi se volete raccontateceli pure, sempre al 349-238-6666, si raccontava appunto del caso di una madre, scende giù, va in cortile con la bimba di 4 anni, 5 anni, e da su i vicini che la insultano e le dicono: no, devi tornare in casa, ci infetti, eccetera eccetera, insomma, e là ovviamente la bambina in sofferenza, che a quel punto lei stessa si è messa a piangere, insomma il racconto è questo. Magari altri racconti in giro per l'Italia ce ne saranno. Di certo tenere in casa bambini più o meno piccoli per così tanto tempo senza poterli far uscire, potendo fare solo la passeggiatina di 200 metri, ragazzi, non è facile per niente, ne risentono loro, risentono di non poter uscire, risentono di non potersi muovere abbastanza, risentono di una situazione psicologica complessivamente pesante con tutti quanti in casa o quasi tutti in casa. Non è facile, uno, diciamo così, parlo anche ovviamente per esperienza diretta, ed è un tema che andrà affrontato e andrà risolto. Sempre appunto 349-238-6666 per gli sms, i messaggi su WhatsApp, anche audio. La diretta Facebook, ci siamo, sulla pagina di 24 Mattino, e questa è la seconda parte di 24 Mattino, quella dedicata alla rassegna stampa. È mercoledì 22 aprile, sono le 7:22 minuti e 30 secondi. E le prime pagine dei quotidiani si dividono un po' tra quelle dedicate, per così dire, alla fase 2 e quelle dedicate agli aspetti economici. Mascherine fino al vaccino è il titolo del Corriere della Sera. Conte, mascherine fino al vaccino, è il titolo del quotidiano nazionale. La Stampa sulla fase 2, Conte riapre tutta l'Italia il 4 4 maggio, questa è l'idea, ormai questa data si è innestata, per così dire, nella testa di tutti, degli italiani e ovviamente anche del governo. Bisognerà vedere come sarà questa riapertura. La stampa dice nessuna differenza tra le regioni. Regioni riapre chi ha i requisiti, scrive invece il Messaggero, e quindi qua scatta l'idea di una differenza, di una regionalizzazione delle aperture. Ripartenza fai da te, titola il Giornale. Conte prende ancora tempo sulla fase 2, e intanto gli imprenditori si organizzano da soli. 125.000 aziende sono già tornate a lavorare. Il fronte economico, il Sole 24 Ore su tutti, decreto aprile oltre i 100 miliardi verso la ricapitalizzazione della Cassa Depositi e Prestiti da 45. E poi ci sono alcune novità in arrivo nel piano del Ministero dello Sviluppo Economico, indennizzi diretti alle mini imprese. A centropagina la pubblica amministrazione chiusa per Covid-19 e Conte che annuncia i 5 step per la fase 2. La Repubblica, il titolo è sui rischi per il prodotto interno lordo, meno 15%, un grande numero campeggia in prima, il profondo rosso del nostro virus è il titolo della Repubblica. Il Manifesto, MES e nuvole, a citare una celeberrima canzone di Paolo Conte, insomma, è la foto invece di Giuseppe Conte, insomma, ovviamente in prima pagina si parla del meccanismo europeo di stabilità. E ancora su Conte, la verità, Conte parole, parole, parole, Libero, Conte parla, la gente lo insulta. Il Fatto Quotidiano invece si sofferma sulle RSA, sulle residenze per anziani. Carlo De Benedetti, Angelucci & Company, chi c'è dietro le RSA? È il titolo del Fatto Quotidiano. Infine la Gazzetta dello Sport, perché qua ci sono due fronti, un po' la riapertura, avete sentito poco fa la controcopertina del nostro Dario Ricci, sì giochiamo ma le 20 di A tutte unite, torniamo in campo con garanzie sanitarie e giuridiche, ma oggi si incontrano col ministro Spadafore, vedremo che cosa ne emergerà, ma il titolo forte di prima pagina è dedicata a Lukaku shock, a gennaio all'Inter tutti ammalati con tosse e febbre, Skriniar a San Siro quasi svenne, era Covid? Allora non c'erano i test, queste le rivelazioni arrivate da Lukaku, anche queste evidentemente significative. Iniziamo, come sempre, da qualcosa di un po' laterale, poi nella parte centrale 7:30 arriveremo alla parte centrale della nostra rassegna stampa, parlando ovviamente del MES, delle discussioni politiche, non solo di quelle, anche delle discussioni tra virologi, c'è un po' un dibattito anche tra virologi e tra scienziati che si sta facendo abbastanza acceso e abbastanza duro, e anche un dibattito tra scienza e politica, chi decide? Chi deve decidere? Ne parleremo tra l'altro alle 8:20, già se con Maria Latella, se volete intervenire su questo ci siamo, sempre 349-238-6666. Dunque, iniziamo dal Sole 24 Ore, va, perché qua c'è una questione che ha a che fare con la criminalità organizzata, l'allarme era già stato lanciato nei giorni scorsi e adesso sta ripartendo. Ed è un allarme del quale ci racconta Stefano Elli a pagina 13 del Sole 24 Ore, che ha a che fare in questo caso soprattutto con gli alberghi. Gli alberghi che ovviamente sono vuoti, e in particolare ci porta Stefano Elli a Rimini. Rimini però da questo punto di vista è simbolica, perché chissà che cosa sta avvenendo in altre parti d'Italia. Turismo, arrivano le offerte predatorie sugli alberghi vuoti. Se vendi oggi ti diamo X milioni, se vendi tra un mese ti diamo 2/3, tra 3 mesi la metà. Questo è il tenore ribassista delle offerte che iniziano a giungere in questa fase a decine, ma potrebbero essere ben di più, sul mercato degli hotel e delle strutture turistiche sulla riviera romagnola. È un fenomeno carsico, naturalmente, di cui si parla poco e malvolentieri, ma che trova conferme su più sponde investigative e professionali. Non hanno perso tempo, dunque, gli squali della crisi del Covid-19, consapevoli di avere a che fare con un settore fiaccato nelle risorse, nel morale, dalla consapevolezza che quand'anche si dovesse riaprire, la stagione è da considerarsi pressoché perduta. E dunque, il prefetto di Rimini ne aveva già parlato, Alessandra Camporota, e le parole vengono citate da Stefano Elli. La mafia sfrutterà il virus per infiltrarsi, ha dichiarato il prefetto riminese. Le istituzioni sono allerta e stanno seguendo con forte attenzione gli accessi al credito, così come passaggi di proprietà sospetti di strutture alberghiere o commerciali. Dunque, come comprendete, c'è un allarme di infiltrazione della criminalità organizzata, che è l'unica ovviamente che in questo momento ha una liquidità rapida, disponibile, e che rischia di infiltrarsi in tutti questi settori con estrema rapidità. Andiamo sulla questione delle RSA, sulla questione delle residenze per anziani, e vi voglio portare in due posti diversi d'Italia, perché il problema non riguarda solo l'Italia innanzitutto, ma riguarda molti altri paesi europei. È un problema che però forse solo in Italia è stato sottaciuto così tanto, cioè se ne è parlato così poco finché le cose non sono esplose, quasi in una narrazione partita dal basso, dai parenti degli anziani, dai figli e dai nipoti degli anziani che erano in queste residenze e che hanno iniziato a vedere un numero sospetto di morti. E che ci porta sul territorio, per esempio, ancora una volta in Lombardia. Monica Serra da Milano sulla Stampa, pagina 9, ci racconta degli almeno 160 morti solo negli ultimi 8 giorni. Il drammatico dato acquisito dalla Procura per il momento è parziale, riguarda parte delle 22 case di riposo sulle quali i magistrati milanesi stanno indagando. Il report tenuto dagli investigatori viene aggiornato quotidianamente, ma non riesce a essere più preciso, perché il numero dei decessi può variare di ora in ora e non tutte le RSA lo comunicano tempestivamente. Uno dei fascicoli d'inchiesta aperto per epidemia e omicidio colposo, oltre che per la violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro, riguarda la Fondazione Don Gnocchi, dove fino alla tarda serata di ieri sono andate avanti le perquisizioni del nucleo di polizia economico-finanziaria e del Dipartimento Ambiente, Salute e Lavoro. Scatoloni sono ovviamente stati acquisiti. Alla Don Gnocchi ci sono stati 200 morti tra marzo e aprile ed è una delle 15 residenze per anziani che, dopo l'ormai famosa delibera dell'8 marzo, hanno creato un reparto Covid per pazienti a bassa intensità provenienti dagli ospedali allo stremo. E ci porta in un'altra regione invece La Verità, e siamo a pagina 11, e ci porta in Toscana e ci racconta dal titolo, nel pezzo di Fabio Amendolare e Cristian Campigli, che strage di anziani anche in Lunigiana. Però Rossi se la prende con il TG2, scrivono i giornalisti. La prova che in alcune regioni la strage di nonni nelle RSA, sulla strage di nonni ci sia un nervo scoperto, ieri l'ha fornita il governatore toscano Enrico Rossi. Ha sbroccato, così scrivono loro, dopo gli 8 servizi che il telegiornale di Rai 2 ha trasmesso, raccontando i 168 decessi nelle strutture, sui quali hanno aperto fascicoli di indagine le procure di Firenze, Prato, Pistoia e Lucca, e ha accusato il TG2 di troppa attenzione. Era impensabile però riuscire a mettere sotto il tappeto tutta quella polvere, soprattutto in Lunigiana, un'area geografica che confina con la Liguria. Insomma, qua parlano i giornalisti Amendolare e Campigli di una sorta di film dell'orrore, il cui bilancio, stando all'ultima rilevazione fatta dall'ASL Toscana Nord-Ovest, conta 302 ospiti e 109 operatori contagiati e 63 decessi. L'incidenza della mortalità in proporzione, dicono, è a livelli lombardi. E dunque anche la Toscana. A chiudere questa prima parte, vi voglio segnalare questa pagina interessante del Quotidiano Nazionale, siamo a pagina 9, dove fanno un po' riassunto delle ricette anti-Covid nelle città. Andiamo a volo d'uccello. Roma punta alle bici e apre la zona traffico limitato alle auto. La sindaca Raggi vuole misure alternative per evitare il traffico sui mezzi pubblici della capitale. Incentivato l'acquisto delle bici elettriche. Milano, Lombardia, metro, nuovi orari e seggiolini alternati. Guardate che sarà tosta per Milano, perché una volta iniziata la fase 2, fanno sapere dall'assessorato comunale alla mobilità, metropolitane, bus e tram potranno trasportare solo il 25-30% dei passeggeri rispetto a prima dell'emergenza. Vuol dire, vuol dire 420.000 pendolari al giorno, non più gli 1,4 milioni precedenti. Poi sui mezzi pubblici con le mascherine, dicono in Emilia Romagna, in Toscana più corse dei bus e ridotto lo spazio, la possibilità di prendere un treno. Infine, vabbè, insomma, un elemento va dato su questo, sulla Serie A che riparte, perché poi sarà sicuramente un elemento di discussione. Allora, vi piaccia o no, diciate chi se ne frega o no del calcio, perché a volte qualcuno ce lo scrive, chi se ne frega del calcio. Però, ragazzi, qua se ne discute. Si discute di ripartenza, di riapertura, esattamente come per altre attività produttive. Che la consideriate un'attività produttiva o che la consideriate un'attività ludica. Di certo è un grande business. Comunque, i club all'unanimità, ci racconta la Gazzetta dello Sport a pagina 4, decidono che si gioca, ma servono garanzie e chiarezza da FIGC e governo, e alle TV niente sconti. Vedremo se alle TV non si faranno sconti. Detto ciò, così è, e oggi parleranno con Spadafora e decideranno tutti i dettagli, appunto, sulla Gazzetta dello Sport. Una pausa. State ascoltando un programma offerto da JP Morgan Asset Management. Mattino. Scusate, ha ragione De Luca, si dovrebbe aprire a doppi intervalli, cioè mattina alcuni esercizi, di pomeriggio altri, perlomeno dare la possibilità di arrivare a un'apertura totale piano piano e limitare, sì, gli spostamenti, ha ragione. Guardi, io addirittura avrei fatto maggio mobilità per provincia di appartenenza. Giugno mobilità per regione di appartenenza e da luglio per nazione di appartenenza. Beh, mi sembra un po' drastica in questo modo, un po' drastica. Una piccola correzione, ho detto prima, citando il titolo del manifesto, Messe e nuvole, ho attribuito Messico e nuvole a Paolo Conte. Un ascoltatore mi fa notare, guardi che è di Enzo Iannacci. Abbia pazienza, essendo cresciuto a Roma e non avendo una profonda cultura iannacciana, per così dire, insomma, io la versione che conoscevo era quella di Paolo Conte, essendone stato un amante, quindi quello ho citato. Comunque sì, era di Enzo Iannacci, e insomma, diciamo, è stata famosa anche la versione di Paolo Conte. Caro Paolo Mieli, buongiorno, eccoci. Buongiorno, eccoci. Allora, inizierei da Giuseppe Conte, non Paolo Conte, ma Giuseppe Conte, con ovviamente il discorso ieri in Parlamento, in vista del Consiglio europeo che ci sarà domani, molti temi affrontati, il MES naturalmente, lo stesso Consiglio europeo e anche un po' il tema dell'uscita, no, da questa crisi da Covid, questo 4 maggio indicato come data centrale. Lasciami dire in partenza però che nelle telefonate degli ascoltatori c'è una saggezza che è da cogliere, cioè tutti si rendono conto, tutte le persone che ci telefonano, che l'idea che il 4 maggio c'è Tana libera tutti è preoccupante, nel senso che l'Italia non ha frontiere interne, quindi come fai a evitare che, se per esempio tu apri alle spiagge adesso che arriva la tarda primavera estate, l'Italia centro-meridionale, non arrivino dal nord flotte di persone, come si è visto nei primi giorni del lockdown, di persone che prendono, vanno, e cosa fai? Metti l'esercito su tutte le spiagge? Sì. E quindi io li ascolto sempre molto volentieri, ecco, mettiamo così. Sì. Telefonate ai nostri ascoltatori. Anche perché, come dicevamo prima, Paolo, nella prima parte, i confini, insomma, sono relativi. Certo, Novara e Milano fanno parte della stessa partita, tanto per fare un esempio, no? Un esempio, però ne possiamo fare molti altri. Quindi do un suggerimento prima ancora di noi due e degli altri che parlano, ascoltiamo anche le voci di questi ascoltatori, perché mostrano qualcosa, mostrano una preoccupazione. Comunque, venendo a Conte, ieri ha parlato in Parlamento, aggiungo io, è triste che in Parlamento alla vigilia di scadenze così importanti non possa votare, anche questo è un segno dei tempi, perché il voto darebbe compattezza alle decisioni, mentre invece il fatto che si faccia di tutto per evitare un voto in Parlamento, anche quello vuol dire qualcosa, tant'è che sia gli interventi che leggo sul Sole 24 ore di Lina Palmerini e di Emanuela Perrone, che si occupano di questo discorso di Conte, sono perplessi. Io nella fine di quello della Palmerini leggo, dice Conte usava continuamente espressioni come il più velocemente possibile, in fretta, immediatamente, per chiedere all'Europa nuovi strumenti, dando così il senso dell'urgenza. Cioè, sono tutti appelli alla fretta ma indeterminati. Comunque, sì. Manuela Perrone ci racconta come Conte apre al MES anti-Covid. E la proposta italiana alla UE è un nuovo strumento comune gestito dalla Commissione, Movimento 5 Stelle nel caos, Crimi invoca unità, ma Di Battista dice l'Italia faccia sentire i suoi no. Che cosa ha fatto Conte? Sta gradualmente aprendo al MES, del resto i patti sul MES, sul Fondo Salva Stati, noi li abbiamo già firmati nei giorni scorsi, quindi non c'è nessuna sorpresa che si avrà su questo terreno. L'incontro di domani sarà l'ennesimo incontro interlocutorio, per cui ti do già come se avessi letto i giornali di dopodomani, ci sarò ancora io, non si è deciso una volta per tutte, rinviato a un altro incontro. E il vero merito di Conte, secondo quello che ti ripeto molto ironicamente Emanuela Perrone racconta sul Sole 24 Ore, è quello che a poco sta irregimentando il Movimento 5 Stelle, cioè li sta riportando a verità e li sta riportando a saggezza, a ragione, e non è un compito da poco, nel senso che, come è noto, i 5 Stelle sono il gruppo più importante che c'è alla Camera, un terzo dei deputati e dei senatori. Sì. Non è poca cosa. Insomma, Conte tra l'altro dice, insomma, e poi lo trovate le cronache su vari giornali e anche appunto sul Sole 24 Ore, Conte dice, insomma, noi intanto il via libera a questa ipotesi del MES senza condizioni la diamo a livello europeo perché alcuni paesi ne vogliono usufruire, e poi insomma però invece sul fatto che l'Italia lo possa utilizzare, per così dire, su questo invece forse si appunterà il problema. C'è tutto il tema della fase 2, no? Che già lo accennavamo prima, insomma, commentando gli WhatsApp audio che ci arrivano dai nostri ascoltatori, e però insomma poi viene approfondito un po' dai giornali con indicazioni su tutto quello che potrebbe avvenire, le mascherine fino al vaccino, dice no, lo ha detto lo stesso Presidente del Consiglio, con un'idea di ripartenza che non si riesce a capire anche guardando i giornali. Paolo, io non so se tu l'hai capito, perché alcuni giornali dicono che sarà per regioni, come si diceva prima. Altri giornali dicono che invece sarà nazionale. Sicuramente non può essere nazionale, nel senso che i dati in Lombardia, noi adesso in questi giorni sui giornali diamo voce all'ottimismo, sì, stanno andando meglio, in effetti stanno andando leggermente meglio, ma la crisi in Lombardia, Piemonte, in parte nelle Marche, è ancora a un livello tale, quando si hanno oltre 500 morti al giorno e i contagi sono ancora nelle dimensioni in cui sono, l'idea di far ripartire, se noi pensiamo che tutto partì, era latente il Covid già da qualche settimana, ma tutto partì per quel paziente di Codogno che infettò un pronto soccorso. L'idea di mandare in giro per il paese migliaia, a questo punto, migliaia di sintomatici, asintomatici, è un'idea un po' pazza, nel senso che tu la puoi fare se fai come in quei paesi nordici che non fai il lockdown, sfidi e non lo fai, ma se fai 2 mesi di lockdown per poi avere una catastrofe e dover ricominciare 1 mese dopo, allora vuol dire che sei scemo oltre che pazzo. Poi avrei visto che si discute molto sui giornali, sono cosa lanciata ieri dal Corriere della Sera, che c'era un documento, un piano segreto antiepidemia pronto già tra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio. Oggi ho letto un retroscena di Mauro Evangelisti sul Messaggero che dice che effettivamente sì, già il 12 febbraio questo piano era compiuto, che non lo diedero in giro perché non volevano spaventare gli italiani, sì. E a quel tempo, dice il ministro Speranza, l'agenzia europea preposta dava come bassa la possibilità di diffusione in Europa. Sì. C'è un po' di saggezza in questo, nel senso che per ogni eventualità, anche che l'Italia venga sommersa dai mari, ci sono piani che prevedono qualsiasi cosa, e uno prima di darli, perché darli significa darli al pubblico, significa mettere l'ansia, e quindi prima di darli deve avere una sorta di autorizzazione. A dire che quella cosa è possibile. Detto che altri giornali, come per esempio Libero, come per esempio Il Giornale, la prendono da un altro lato, no? Libero scrive: il governo ha mentito agli italiani. Il Giornale ci parla del giallo sul piano antipandemia, fermo per due mesi. Insomma, e qua è un modo, per così dire, di ribaltare sul governo le responsabilità che vengono attribuite in questa fase a Regione Lombardia, no? Si scrive di fatto sui giornali di centrodestra, no? Un po' più di opposizione, beh, insomma, quindi lo sapevano, no? E perché non hanno chiuso Alzano, Nembro? Insomma, si ritorna un po' sul tema della responsabilità. Non è che lo sapevano, avevano messo nel conto delle previsioni anche questa. Del resto, negli Stati Uniti, dove tutto è più limpido, ricorderai che prima che ci fossero i primi casi dissero: potrebbe arrivare, potrebbero essere 400.000 morti, 500.000 morti. Ecco, in Italia credo, immagino, non si sia voluto dare questo effetto, anche perché quando negli Stati Uniti sono uscite queste notizie già l'epidemia si era diffusa in Europa, ma quando noi avremmo dovuto diffonderle l'epidemia era confinata in Asia, e tante volte c'è stata un'epidemia tipo la SARS che restò sostanzialmente confinata in Asia. Anche allora, immagino, c'erano stati fatti dei piani e nessuno li divulgò per non mettere ansia e non far fare cose sconsiderate, tipo quelle che ci furono all'inizio, l'assalto ai supermercati, gli spostamenti in massa delle persone. Insomma, c'è una responsabilità nel dare o non dare questi piani. Queste notizie e queste informazioni. Il traffico. Promo 24. IG, broker leader nel trading online, ha il piacere di invitarti all'appuntamento dell'anno in live streaming con uno dei più grandi trader al mondo, Larry Williams. Partecipa online il 9 maggio dalle 10 alle 15. Collegati alla diretta video per scoprire le regole d'oro del trading e come gestire al meglio i rischi e le opportunità sui mercati finanziari. Registrati su IG.com. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fare trading comporta dei rischi. Mattino. Allora, precisazione sulla precisazione, perché mi hanno scritto tantissimi contiani, non diciamo seguaci di Giuseppe Conte, ma di Paolo Conte, dicendomi che appunto Messico e Nuvole è effettivamente di Paolo Conte, ma è stata resa celebre da Enzo Iannacci. Basta, chiudiamola qua per favore, ragazzi. Allora Paolo, ti porterei, direi a Singapore, dove che noi abbiamo celebrato come esempio di gestione dell'epidemia e che sta in realtà vivendo i suoi problemi. Sì, io lo leggo, cioè su Repubblica, lo leggo sulla prima pagina in alto, molto presto in evidenza dal Sole 24 Ore. A Singapore altre 4 settimane di restrizioni. Singapore ha prolungato le misure restrittive per ulteriori 4 settimane a causa del continuo aumento dei contagi. Il primo ministro ha spiegato che il lockdown avrebbe dovuto essere sospeso il 4 maggio e continuerà fino al 1 giugno. Sarà ancora più drastico, resteranno aperti perché ci sono dei rifugi, dei campi dove vengono tenuti coloro che vengono dall'estero, lavoratori, migranti, ecco, loro migranti, dove si è sviluppato in maniera velocissima e impressionante. Perché leggiamo questa notizia? Primo perché, come hai tu detto, sembrava la Corea del Sud e Singapore sembravano dei paradisi, e la notizia che hanno dovuto riaprire a Singapore e tenere tutto maggio è una fior di notizia, visto che noi dobbiamo imparare da quello che succede in quei paesi. E secondo, è implicito, perché di migranti ne abbiamo, ne avremo anche noi, e dovremo sorvegliare bene questi posti dove vengono tenuti i migranti e far rispettare molto le regole di questa contenzione, non lasciarle. Poi, visto che adesso mi concedi 5 secondi di pessimismo, è un'altra notizia mi ha colpito, 5 secondi, non di più, poi andiamo a divertirci. Sempre sul Sole 24 Ore, il cambio dei consumi colpisce i formaggi di origine protetta, i vini di origine controllata e garantita, DOP e DOCG si dicono, per il calo delle vendite. I produttori del taleggio iniziano a buttare le forme, cioè buttano forme di taleggio. Soffre il prosciutto, quello in vaschetta, in cassa, solo il 15% del fatturato. Ci sono delle cose che noi non teniamo sotto occhio che stanno accadendo, cioè noi teniamo quelle più vistose, tipo il prezzo del petrolio che va sotto zero, ma qui stanno succedendo delle rivoluzioni nei consumi molto molto preoccupanti. Singapore e il taleggio. L'articolo di Michaela Cappellini. Michaela Cappellini, appunto, siamo a pagina 13 del Sole 24 Ore. Di contro invece abbiamo un consumo di lievito e di farina mostruoso, ormai nei supermercati si fatica a trovare. A proposito di fase 2, voglio segnalare agli ascoltatori, non avessero sentito la prima parte della trasmissione alle 6:30, nella quale ne abbiamo un po' accennato, insomma, il Quotidiano Nazionale a pagina 4 invece ci porta su una sorta di fuga in avanti della Toscana, no? A segnalare il cambiamento. Ristoranti e pizzerie pronti alla fase 2. Asporto e distanze sociali, c'è l'intesa. Ci sono 25.000 aziende di questo tipo ai nastri di partenza e potrebbero ripartire già il 27 di aprile, quindi con notevole anticipo rispetto a quanto non immaginato, appunto, no? Dalla presidenza del Consiglio. Fammi aggiungere una cosa in margine: mi è molto piaciuta l'intervista di Giuseppe De Rita, il fondatore del Censis, che ha 87 anni, anche lui qualche malato, ma una persona molto intelligente, che ha rilasciato un'intervista a Concetto Vecchio su Repubblica, dove dice: sì, noi parliamo del dopoguerra, ma qua io non vedo lo scatto del dopoguerra. Nel dopoguerra tutti si misero al lavoro, soffrirono le pene dell'inferno, e mentre noi qua stiamo solo a aspettare bonus dello Stato. Non si può solo aspettare il bonus dello Stato, dice De Rita. Negli italiani vedo una stanchezza che viene da lontano, ha contribuito anche l'elite al potere, ricordatevi, ha contribuito l'elite al potere, che li ha quasi invitati a non correre troppo, a prenderla con calma, a prenderla con filosofia. Dice: ma tanto poi qualcuno pagherà, e in genere si pensa che paghi l'Europa, i paesi nord europei che dovrebbero arrivarci. Pensiero errato, non ci pagheranno i paesi del nord europeo. No, ma molto probabilmente no. Però litigano anche, l'hai visto che litigano anche gli scienziati? Sì. C'è tutto questo tema, Burioni, Ricciardi, questo fantomatico professor Giulio Tarro, che insomma. No, non è fantomatico, è un virologo di fama internazionale. Sì, un primario emerito del Cutugno di Napoli. Sono state sollevate, sono state sollevati parecchi dubbi sul suo curriculum di Tarro, e poi soprattutto sulle sue frasi, che lui dice: il lockdown non ha senso, per guarire dobbiamo usare le armi di questo paese, il sole, il mare, solo gli anziani vanno protetti, il virus andrebbe fatto circolare, nel giro di 2 mesi saremo tutti in vacanza. Queste frasi genera confusione, e in generale c'è una bellissima pagina di Fabrizio Roncone sul Corriere della Sera che prende le dichiarazioni più bislacche di questi virologi o scienziati che vanno in televisione, e ce n'è un'altra, l'hai vista, anzi ne abbiamo parlato stamattina all'alba, sul Fatto Quotidiano, in Protezione Civile, malumori interni. Leggila tu, dai. Allora, liti e insulti tra esperti nel comitato Ippolito, siete servi sciocchi. Qual è il punto? No? È che si sta riunendo questo comitato, il famoso comitato tecnico scientifico, sul quale si addensa anche qualche polemica, Paolo, perché non c'è nemmeno una donna, incredibilmente, insomma, non sono riusciti a trovare qualcuna, nemmeno una donna che sia in grado di stare all'interno del comitato tecnico scientifico, il quale si riunisce e deve decidere anche su questa ipotesi di test psicologici, no? Ai 150.000 cittadini che si presenteranno per sottoposti al test sierologico, si vuole chiedere anche un test psicologico su come hanno vissuto in questa fase di lockdown. Chissà perché. E alcuni del comitato tecnico scientifico dicono: no, noi non ci stiamo, cioè non ci sembra una buona idea, potrebbe allontanare le persone. E il direttore scientifico dello Spallanzani, Giuseppe Ippolito, secondo questo retroscena di Alessandro Mantovani e Ilaria Proietti, li attacca dicendogli: siete dei servi sciocchi. Insomma, quindi anche all'interno del comitato tecnico scientifico le cose non filano benissimo. Morale di tutto questo tuo divertente racconto. Se possiamo permetterci una raccomandazione, essere esposti per 2 mesi alla televisione, alle lusinghe della televisione, all'idea, cioè quello che fa le battute, quello più timido, quello più litigioso, attenti virologi, attenti scienziati, anche queste armi della comunicazione vanno usate con parsimonia, se no a poco diventerete quei personaggi fissi della televisione che la sparano sempre più grossa per essere richiamata, e poi alla fine finirete a candidarvi in politica e ci sarà il triste spettacolo di persone che si capirà che già mentre il mondo soffriva per la pandemia pensavano proprio futuro nei banchi di Montecitorio o di qualche consiglio regionale. Attenti. Essere più parchi di presenza in televisione, sì. Non dare quelle presenze, ma vedremo, forse sì. Il virus lo portano i gatti, sta nell'aria, sta nell'acqua. Cioè, non dire delle cose sì. Generiche di cui non si ha certezza, ma e soprattutto, soprattutto essere trattenuti. Adesso è passato il momento dell'emergenza. Meno presenza in televisione, meno presenze, e soprattutto meno presenze per dire cose sì. Che non c'è bisogno di loro perché si dicano. Io so che bisogna lavarsi le mani. Ormai lo sappiamo. Due, tre metri di distanza. Allora, caro Paolo, no, dobbiamo chiudere veramente. Siamo in chiusura. Grazie Paolo Mieri, ci sentiamo venerdì con la rassegna stampa. Ciao. GR24 tra poco con Maria Latella, parleremo anche di questo. Virologi, tecnici, eccetera, eccetera.